Buonasera ragazzi, benvenuti, come al solito queste sono le serate belle di Runtime. Anche se un po' vi eravate abituati a sentirci praticamente una, due, tre volte al giorno durante questo lungo periodo è terminato il nostro impegno. C'è ancora da ringraziarvi per tutto quello che ci avete dato, che ci avete restituito indietro, perché è stata un po' una cosa bella. La cosa triste un po' di tutta questa faccenda è che poi ci siamo risvegliati da questi due mesi di torpore. Ma secondo me ritorniamo presto a dormire. Tipo, torniamo in letargo. Va sì. Bene. Ragazzi, adesso iniziamo. C'è uno spot che è lo spot di Oro, del nostro amico Vargheon. Benvenuto in Runtime Radio, caro Leo. E poi parte la sigla e inizia con la nostra trasmissione Everything, che è arrivata alla 11ª puntata della seconda stagione. Ti aspetterai che adesso io ti spieghi il motivo di questo mio podcast, ma soprattutto il senso. Ebbene, la mia risposta è: non ne ho la più pallida idea. Ho iniziato a fare podcast in punta di piedi. Io non sono un professore, non sono un esperto di qualche argomento, non ho tematiche per cui varrebbe la pena ascoltarmi per saperne di più. Ascoltando il lavoro degli altri, elogiandolo. I podcast stanno spopolando, stanno diventando dei mezzi sempre più popolari, anche perché grandi nomi stanno rendendo appunto grande questo mezzo. Rosicando pure qualche volta. Lui è un tipo secondo me molto fortunato, e lo dico sì anche un po' con un po' di invidia. Non era sempre facile capire cosa fosse meglio dire o come farlo. Magari alcune cose le lascio indietro perché mi rendo conto di non essere così bravo, altre invece mi piace portarle avanti tutte con, diciamo, con il mio ritmo, con la mia flemma solita, ma tutte quante in qualche modo fanno parte del mio bagaglio culturale. Sono arrivato al punto di voler smettere. Mi sono fermato perché dopo l'uscita del primo episodio di Lira, il mio secondo lavoro da podcaster, mi sono detto che per il primogenito fosse arrivato il momento di capire davvero cosa fosse. Ma poi una scintilla, un fioco brillare nel buio, e dopo tanto incedere ho visto la mia strada, ed era lastricata di bellezza, una bellezza che doveva essere raccontata. Ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine ho capito dove volessi andare. Oro, il primo viaggio in podcast di Leo Vargheon. Parole, pensieri e stupore nel mondo che ci circonda. Su Runtime Radio, la web radio geek. E benvenuti carissimi amici, bentornati a Runtime Radio Everything. Questa serata del giovedì sera, ore 21, parleremo di cose importanti. Ma prima di iniziare a parlare di quello di cui si discuterà all'interno di questa puntata veramente interessante, come non ce n'erano da tanto tempo, diciamo anche questo, perché insomma la cosa bella è che andavamo a spulciare, a cercare ospiti. Michela ricorda sempre, abbiamo parlato di nucleare, abbiamo parlato di Chico Forti, il professor Basosi. Esatto, abbiamo parlato di tsunami, abbiamo parlato di migranti in tante situazioni, indiani d'America con il professor Mariani. Esatto, quindi insomma abbiamo fatto bei discorsi e torniamo, io dicevo, facevo questo discorso prima sul fatto che ci siamo ritornati alla realtà, ci siamo un po' svegliati, perché che è successo? Alla fine, diciamo, del periodo più di grassa restrizione, finalmente abbiamo avuto l'opportunità di riportare in Italia, a casa, Silvia Romano, e non appena questa cosa è successa, e lo sapevamo che sarebbe successa, è piovuta la merda dal cielo, cioè proprio in una quantità veramente... Quindi la quarantena non va affatto bene, anzi... Ecco perché dicevo il sogno, anzi. Perché noi abbiamo sperato che qualcosa cambiasse, cioè che fosse un'occasione di riflessione. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Ma non ne parliamo. Allora, innanzitutto, l'unica cosa che vogliamo dire, che mi sento di dire per tutti, forse per tutte le persone che stanno qui, che poi presenteremo, e per me, da parte mia, da parte di Simone, Silvia,

ci può stare, ci può stare. Non solo quando lo metto nelle trasmissioni musicali, anche quando glielo faccio ascoltare, magari gli faccio ascoltare qualcosa di un po' più romantico. No, mi guarda e mi dice: ma che è sta lagna? E il tempo per il romanticismo è finito. Ricordatevi che siamo in guerra e noi siamo la resistenza. Vabbè. Francesco, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Devo festeggiare un primato, nel senso, ogni tanto Simone sa che in diretta mi porto qualcosa da bere e da mangiare, e questa volta non mi è andato di traverso. Ah, ok, non ti sei strozzato. Bene, bene, sì. È una cosa importante. E dico, il mio unico scopo questa serata, il mio unico e solo scopo, è di presentare l'ospitone, quello che è l'esperto della situazione, che ci parla un pochino di una situazione che non tutti stanno capendo, non vogliono capire, oppure che non cacano, se mi permettete il francesismo. Ed è Antonio Iannone, una persona che ci conosciamo almeno da 12 anni, più o meno, non so, non mi ricordo più. Comunque per, tanto tempo. Per motivi che scopriremo a runtime di notte sabato sera, ricordiamo. Ah, quindi vedrai anche... Quella era già una conseguenza, quella. Mi hanno già incastrato, sì. Oh, ciao male. E benvenuto intanto. Ciao a tutti, buonasera. Senti, prima di iniziare mi permetti, ce l'avevamo segnato ma ce lo stavamo già scordando. Pensa te che noi veramente la professionalità è sempre di casa. Ricordiamo che era il 23 aprile del 2010 e noi iniziavamo la primissima puntata di tutto un podcast che si intitolava 1x00, quindi la puntata pilota, io non l'ascolterei. No, neanch'io. Ed effettivamente era una puntata che non si poteva ascoltare. Cioè, proprio... C'è stavi tu con la dentiera. No, ma in realtà stavamo con i microfonini, quelli là delle cuffiette. Stavamo col me, con uno zitti, un macello, ragazzi, una cosa indecente. E purtroppo poi tutto questo materiale, a parte importanti puntate nelle ultime stagioni, è andato perduto. Però questo sancisce. Io ringrazio, vorrei sempre ringraziare, perché è una delle persone che ricordo con grande cuore, il mio professore Giorgio Mariani, che era un professore che ha lavorato tanto in America, che quando gli ho detto: professore, io sto facendo un podcast, e lui mi ha detto: devo assolutamente partecipare. Quindi è stato dolcissimo, grandioso. E quelle persone che tu dici cioè, gli vorrò bene per sempre, quindi lo saluto. Ma magari ancora ci sta ascoltando. Ma voglia, come no? Sicuramente non fa altro tutto il giorno. Anzi, di solito, non è detto. Essere andato in pensione solo per ascoltarci. Comunque, questo fatto sancisce il fatto che noi facciamo podcast da 10 anni. Quindi la storia di Runtime, che è, diciamo così, un surrogato successivo di tutto quello che abbiamo fatto, di tutto un podcast, archeologia videoludica, archeologia informatica, poi Italian Podcast Network, Runtime Radio e tutto il resto. Insomma, tutto il grande lavoro che è stato fatto, insomma, adesso abbiamo possiamo festeggiare, stappare questa bottiglia, sono 10 anni. Ma adesso beviamo acqua alla vostra salute. Esatto, invece io ho il mio stock 84. Ma adesso finiscono le note allegre, perché parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie, scusate, ma stavo bevendo. Non me l'aspettavo questa assist così tra capo e coda. Parliamo di solidarietà. È semplice, è una parola molto semplice, che è una parola che negli ultimi anni sta diventando qualcosa di assolutamente complicato. Parliamo di solidarietà in una zona geografica molto difficile, molto molto molto diciamo così spigolosa, che è la Campania. E quindi parliamo di difficoltà e del fare solidarietà, di avere riconosciuta una, diciamo così, un diritto al poter aiutare delle persone. E niente, quindi abbiamo pensato di dar voce ad Antonio Iannone. Io ti pregherei di presentarti. Prima di tutto parliamo di te come persona, Antonio. Tu innanzitutto qual è il tuo ruolo, da dove vieni, tutto quanto. Autointroduci il personaggio in quanto mi autointroduco. Introduci. Ma non sono molto bravo in queste cose, ve l'ho già detto. Comunque sono Antonio, lo sapete, vengo... sono di Caserta e sono operatore di un progetto di accoglienza della rete SPRAR, che è una rete nazionale che riguarda appunto i progetti cosiddetti di seconda accoglienza. voi immaginiamo tutti quanti nei progetti di accoglienza in Italia i cosiddetti CAS, che sono i cosiddetti centri di accoglienza straordinaria, sono le strutture in cui i migranti vengono accolti all'arrivo nel nostro paese, sono quelle strutture ghetto dove vediamo qualche volta al telegiornale con la merda per terra, tutti ammassati in un'unica struttura. Noi invece siamo in un progetto di seconda accoglienza. È una rete molto, molto virtuosa e che funziona molto bene, perché innanzitutto fa vera integrazione sul territorio. Il nostro progetto fa dei attività di formazione, corsi di formazione professionale anche molto, molto sofisticate, come i corsi di meccatronico, corsi di ristorazione, corsi in pizzeria, corsi di lavorazione del tabacco. E ci occupiamo, la mia mansione in particolare è quella di inserire i ragazzi in accoglienza in attività sociali sul territorio. Quindi siamo uno, credo, anche dei pochi casi in Italia, se non l'unico, che coinvolge i ragazzi in accoglienza in progetti come il Piedibus. Non so se dalle vostre parti esiste, sì, con questo esiste, accompagnamento. Sì, quasi. Ci sono gli immigrati che gestiscono anche a volte in totale autonomia gli accompagnamenti a scuola dei bambini okay. Italiani sono al nostro fianco e al fianco anche dei residenti nella riqualificazione delle villette, dei parchi pubblici della città. La Caserta è piena di villette che erano abbandonate o chiuse. Noi le abbiamo con la nostra associazione, che è un centro sociale. Questa è un'altra particolarità, uno forse l'unico centro sociale in Italia che gestisce anche un progetto di accoglienza. Gli immigrati del nostro progetto sono al fianco degli italiani per riqualificare villette, parchi pubblici, per migliorare il territorio sostanzialmente. Quindi posti, c'è un quartiere molto, molto povero a Caserta che si chiama Rione Acquaviva, dove c'erano due villette completamente chiuse, abbandonate, piene di erbacce, siringhe, tutte queste cose qua. Noi siamo entrati, abbiamo aperto la villetta, abbiamo messo un nostro catenaccio, consegnato le chiavi al comune, e con il nostro progetto abbiamo impiegato i ragazzi insieme però ai residenti italiani che volevano vedere quello spazio riaperto da anni, perché non c'è quasi niente di pubblico e di verde a Caserta, se non il parco della Reggia, che adesso tra l'altro è diventato anche a pagamento, si paga un abbonamento di circa 30 euro addirittura. Quindi è un bisogno molto, molto sentito dalla popolazione locale. I ragazzi sono impiegati anche su questo, poi partecipano anche come insegnanti nei laboratori gratuiti che abbiamo per i bambini delle famiglie povere italiane. E questo perché sostanzialmente noi spiegavo prima un po' ai ragazzi, noi non facciamo assistenzialismo, nel senso, noi non siamo quelli buoni, quelli che pensano che gli immigrati vadano aiutati perché c'è bisogno di essere umani. È ovvio che c'è questo bisogno, soprattutto in un momento, in un periodo storico difficile come questo. Ma noi crediamo che la migliore arma per sconfiggere il razzismo, il sovranismo, il fascismo, come lo vogliamo chiamare, sciacallismo. Lo sciacallismo, suggerisce Frank, sia che italiani e immigrati insieme combattano per migliorare le proprie condizioni di vita. Ed è una sorta di, io la chiamo, pedagogia della lotta, un po' come diceva anche Paolo Freire. Ma Antonio, ma tu, ma dove vivi? Ma che stai a dire? ascoltandoti e guardando, cioè, i canali di odio che vediamo ormai scorrere, il sangue di odio che vediamo scorrere tutto il giorno in Italia, tutti i giorni, e a partire dal governo fino a comunque il vicino di casa, io mi chiedo: ma sei sicuro di quello che dici? Cioè, è veramente così? È possibile? È possibile, perché secondo noi, lo vediamo tutti i giorni, deve essere una pratica quotidiana. Davvero, purtroppo non serve a niente fare slogan antirazzisti, provare a diffondere con frasi, con le parole, l'antirazzismo, la solidarietà. Serve fino a un certo punto. È l'esperienza quotidiana, quando una mamma, anche magari con delle idee preconcette razziste, vede il figlio accompagnato da un immigrato a scuola, quell'immigrato diventa tuo amico, diventa un'esperienza diversa da quello che hai sentito tutti i giorni in televisione, da quello che hai sentito sul giornale. Ma anche riguardo alla questione che ti dicevo prima, c'è un rione in cui abbiamo lavorato, dove una delle strade più povere e malfamate di Caserta, dove non si faceva, non si era mai fatta la raccolta differenziata. Mm-hmm. Siamo intervenuti noi, abbiamo fatto portare i bidoni dall'Ecocar, dalla compagnia insomma locale, e abbiamo fatto un lavoro con queste famiglie. Ci sono diverse persone tra quelle che ho conosciuto, perché abbiamo fatto anche porta a porta con queste persone, che ce n'era uno che aveva l'immagine di Mussolini, lo ricordo ancora, il profilo Facebook, un uomo su, più o meno sui 50 anni. Questa persona, quando vede Mamadou, quando vede Ibrahima, quando vede persone che sono, hanno combattuto insieme a lui, si sono impegnate insieme a lui per migliorare quel quartiere, lo riconosce tranquillamente come, come un amico fraterno, e iniziano anche a vacillare magari quello che erano lo, le sue... Vabbè, diciamo, partiamo anche dal fatto che molte persone si legano a delle iconografie, a dei principi o delle ideologie senza avere neanche la minima reale cognizione, certo. No? Magari influenzate magari dall'aspetto, dalle situazioni circostanti. Io mi ricorderò sempre una scena, ragazzi. Sono anche la maggioranza, sì, appunto, no? Perché sì, infatti, secondo me è questa. Io mi ricorderò, adesso non c'entra niente. Poi dopo ti faccio una domanda, la metto un attimo un po' più sul filosofico. Adesso voglio raccontare una piccola stupidaggine che mi è capitata una volta sull'autobus andando a Pomezia. Pomezia è una realtà molto particolare, è una città industriale, di quelle costruite con i soldi del mezzogiorno, dove praticamente c'è un enorme quartiere dormitorio dove la gente faceva fabbrica, e quindi c'è una realtà anche politica molto particolare. E mi ricordo che c'era questo ragazzetto di colore che stava insieme a tanti altri ragazzetti e facevano i cretini sull'autobus. Quando lui è sceso, c'era la madre che l'aveva venuta a prendere, lui dice alla madre: lasciami stare, sporca negra, quando prenderemo il potere vi bruceremo a tutti. La madre gli ha dato un sacco di carcipa a sto ragazzino, giustamente, no? Cioè, in realtà, secondo me, e qui entriamo, no? Nel senso, per essere sentirsi parte di qualcosa non ha importanza, no? Tante volte questo poi lo puoi diciamo riflettere in tante situazioni, che possono essere le comunità religiose, le realtà politiche anche estreme, a volte anche quelli insomma pseudoterroristici, no? Tutte, in realtà è sempre un senso d'appartenenza, non è neanche importante se tu lo condividi o no, no? È più una questione di essere integrato all'interno di un sistema, perché ti senti inadeguato all'interno dell'insieme più grosso, no? E questo e poi è da qui viene pure il sovranismo, no? Cioè a noi ci fa più comodo sta nel cantuccio nostro piuttosto che pensare dove interagire con una comunità più grande. Sì, però sì, poi sì. Riflettendo a quello che dicevi tu, no? Il fatto che voi poi fate un lavoro che quasi vi sostituite alle istituzioni, no? Cioè voi siete un sottostrato della società che va praticamente a coprire un vuoto che dovrebbe essere l'istituzione, no? Cioè, perché poi a volte tu mi dici anche sul discorso del differenziato, no? Cioè nel senso, voi siete intervenuti per portare un qualcosa all'interno di una realtà, no? E questa è una cosa che avrebbe dovuto quasi essere automatica, no? Quindi, però poi ci sono le differenze che possono essere sociali, possono essere anche di classe, possono essere economiche, possono essere razziali, roba genere. Ma in un paese come il nostro, no? Che poi non è nient'altro che un guazzabuglio architettonico, culturale, multireligioso, de culture da oramai più di 500 anni, 1000 anni, forse anche di più, no? Cioè, non è un paradosso sta cosa che noi stiamo a fare, quello è musulmano, noi siamo cattolici, boh. Cioè, in realtà io ce l'ho una spiegazione a tutto questo. No, mi interessa. Dacela. Cioè, nel senso, io credo che molte volte erroneamente si pensa che sia bastato alla Lega finanziare un po' di campagna mediatica, e ne hanno presi di soldi pure dalla Russia, abbiamo visto dai servizi. Ma non è vero, la bestia, eccetera, eccetera. Insomma, che sia bastato questo, diffondere un po' di roba in giro sul web con frasi semplici un po' alla Goebbels, no? Che diceva basta ripetere tante volte una bugia per farla diventare una realtà. Certo. In realtà non basta quello, in realtà su cosa affonda tutto ciò? Perché la Lega esisteva anche 30 anni fa. Questa cosa affonda nelle pance vuote delle persone, secondo noi. Perciò noi, io non, io mi incazzo come incazzo quanto voi, perciò io non mi appiccico mai su Facebook, non, neanche con le persone, neanche di persona. Però è proprio la, è la fame che ti fa odiare quello più povero di te, perché non hai nessuno con cui prendertela. Stai, ne conosciamo, perché noi, trattando anche con tanti italiani, perché abbiamo uno sportello per il sostegno al reddito che riceve centinaia e centinaia di richieste da, per più disparate, per sgravi sulle bollette, reddito di cittadinanza, prima era il reddito di inclusione, adesso è il bonus disabilità, adesso è il reddito di emergenza, tutta gente disperata. A me viene in mente la, una metafora, due che stanno su una tavolozza su, sul mare, e si prendono a capelli perché deve per chi deve rimanere sopra, sostanzialmente quello più debole finisce sotto. La gente è arrabbiata, è incazzata e preferisce odiare, perché è più semplice, è più semplice. Ma guarda, io però penso che la demagogia di sto livello, e quindi anche l'influenza che la gente subisce da ste cose, è sempre esistita, no? Oggi fa più rumore perché oggi sono gli strumenti, anche involontariamente, no? Cioè noi 20 anni fa, 25 anni fa parlavamo di internet come la prateria della libertà, no? Perché comunque per accedere a internet bisogna avere comunque determinati strumenti, un minimo di competenza, e comunque usavi internet. Oggi l'accesso a internet è tutto tranne che internet, no? Quindi poi alla fine c'è tutta questa condivisione sui media, fa molto rumore. Però la cosa bella, cioè, che tu probabilmente sei fatto un'idea rapportata alla tua esperienza, che è quella ovviamente magari di condizioni particolari, ma io e magari anche Michela ti possono dire che le stesse reazioni, gli stessi comportamenti ce l'hanno le persone che vorrebbero comprarsi il nuovo iPhone, per dirti, quello l'ultimo che costa 1.400 euro, ma che magari non se lo possono comprare, e pensano che il problema è altrove. Cioè non è il fatto che non c'hai bisogno di quella cosa, è il fatto di avere bisogno di una cosa e pensare che sia colpa di qualcun altro. Cioè, quello ci sta ugualmente, perché comunque la campagna mediatica di odio l'hanno messa in piedi anche bene. Però noi ci chiediamo sempre, ma tutte queste persone poi che in massa sono andati a votare i 5 Stelle, le stesse persone che poi, la maggior parte di queste persone che poi si sono schierate a fianco di Salvini per la campagna contro gli immigrati, sono quelle persone che hanno trovato un vuoto a sinistra, che non hanno trovato più persone che mettessero davanti a tutto i loro diritti. Sono molto d'accordo su questo. In questo vuoto che si è insinuata la propaganda sovranista, nelle pance vuote e nel vuoto di una sinistra che non esiste più. Sì, è un percorso un po' lungo questo, sì. In effetti sì. D'altro canto, insomma, ci facciamo i conti su questa sinistra negli ultimi 10-15 anni, sicuramente non esiste. Anche 20. Non esiste una controrisposta e quindi quel vuoto, insomma, quella zona vuota, qualcuno se la deve prendere e qualcuno se l'è presa. Sì. Speriamo. Io volevo portare un esempio ancora più significativo di questa cosa, di quello che proviamo a fare. Noi praticamente nell'arco temporale del governo precedente a quello giallo-verde, per intenderci, sì. Ricevemmo un premio dal governo di circa 180.000 euro per la buona accoglienza, perché era un progetto tra i più virtuosi in Italia, avevamo pure dei complimenti dal Parlamento europeo. Sì, mi aggancio alla domanda che vi volevo fare. Praticamente cosa successe in contemporanea? Che il comune, per varie inettitudini insieme alla regione, non rimborsò più i buoni libro alle famiglie per ben 2 annualità. Parliamo ovviamente di una barca di soldi. Quindi le famiglie povere non avevano più soldi perché avevano per pagarsi i libri. E noi abbiamo, nelle varie 3.000 riunioni che facciamo a settimana, anche con i ragazzi immigrati in accoglienza, parlammo di questa cosa, e i ragazzi proposero: ma perché questi soldi che abbiamo ricevuto in premio, che sono soldi senza vincoli, il comune li poteva usare come meglio riteneva, perché poi noi gestiamo il progetto insieme al comune, perché gli SPAR sono gestiti dai comuni, che svolgono il progetto, delegano il progetto all'ente attuatore che siamo poi noi, questa breve parentesi. Mm-hmm. E quindi i ragazzi in accoglienza hanno detto: ma questi soldi perché non li usiamo per aiutare queste famiglie che non sono state rimborsate più da regione e comune? E facemmo quindi una bellissima manifestazione a Caserta, dove intervennero circa un migliaio di persone, che per Caserta, vi assicuro, quando sono italiane sono tante, per chiedere questa cosa. Quindi una roba che non si era mai vista, quindi i soldi degli immigrati che aiutano le famiglie italiane. Questo è il senso, insomma, per capovolgere insomma il paradigma che invece la destra cercava di propinarci ogni giorno. E tante famiglie, perché queste sono tante famiglie, insomma, di bassissima estrazione culturale, che magari avevano votato anche Lega, magari avevano votato 5 Stelle, magari prima, il giorno prima erano contro gli immigrati, contro i barconi e tutto il resto, hanno scoperto una cosa nuova, cioè una piazza insieme con, ho visto una piazza con immigrati, studenti, insegnanti e centinaia di famiglie povere per chiedere questa cosa. È stata veramente una cosa bella, e l'ho riportata perché esprime, credo, al meglio insomma questo concetto che noi chiamiamo inclusione sociale bilaterale. Noi raramente parliamo di integrazione, perché secondo noi integrazione è un termine un po' brutto, perché presuppone qualcosa che assorbe o integra qualcos'altro. Invece inclusione assume meglio un concetto che è di condivisione, di partecipazione tra due realtà che si arricchiscono a vicenda. Questo volevo dire. Ok, e infatti io mi aggancio, cioè mi veniva in mente la domanda che non avevamo concordato, però insomma mi è venuto il dubbio e comunque la curiosità di capire come operate voi dal punto di vista proprio di sovvenzione, cioè come state in piedi e come portate avanti i vostri progetti. Cioè, avete comunque l'appoggio delle istituzioni privati o altro? Guarda, noi senza farvi conti in tasca, ovviamente. Sono contento di questa domanda, perché mi aiuta anche a spiegare bene come funziona bene lo SPRAR, e funziona veramente bene, nel senso il nostro progetto, come tutti i progetti SPRAR in Italia, riceve dei finanziamenti in base al numero di persone accolte, cioè pro die pro capite, no? Uh-huh. E praticamente noi abbiamo 200 persone in accoglienza, divise in 24 appartamenti, perché noi abbiamo preferito favorire l'integrazione con gli autoctoni, quindi in condomini in cui potessero relazionarsi con le famiglie italiane, non fare un'unica struttura come molti fanno, dove mettere tutti quanti insieme, isolati dagli altri. Comunque questi 2 milioni e mezzo di euro all'anno che riceviamo per un progetto che dura di 3 anni e poi si rinnova o non si rinnova, sono tutti soldi che pari finiscono nell'economia locale. Con questi soldi ci paghiamo 40 stipendi di operatori tra italiani e mediatori culturali, ci paghiamo centinaia di migliaia di euro di supermercati italiani, di fornitori italiani, di ferramenta italiana, di agricoltori italiani, di affittuare gli appartamenti italiani. È un indotto economico incredibile per una città come Caserta, ma come lo è in tante altre città italiane che hanno uno SPRAR. E sono soldi in cui è impossibile sgarrare, qualunque spesa viene fatta o con bancomat o con bonifico, c'è una rendicontazione estremamente, estremamente ferrea. Questa è una cosa che mi cerco sempre di spiegare alle tante persone, perché ne abbiamo ovviamente figure, noi che siamo in mezzo a queste dinamiche ne sentiamo spesso tutti i giorni, i soldi, il business dell'immigrazione, come c'è scritto, i centri sociali e basta, i furbetti, è finita, i furbetti di questa ceppa, insomma sono soldi, tutti soldi che arricchiscono la città, arricchiscono paro paro la città, non un centesimo finisce da qualche altra parte, eccezione fatta per i soldi con cui facciamo mangiare i ragazzi, ma sono soldi che comunque finiscono nei supermercati. Insomma, è una ricchezza economica veramente, veramente importantissima. Poi l'altro giorno vi ho condiviso quel post che ci fece Salvini quando ci fu la chiusura del centro sociale, che disse anche una cazzata immane, perché il progetto non prevede la ristrutturazione della sede legale dell'associazione, assolutamente non si può fare, quindi è una delle cagate, ma ne dicono tante di cagate per, insomma, per aizzare la folla, come, come l'ultima, non so se avete letto, che hanno detto quando si sono opposti adesso alla, all'arrivo di 20.000 immigrati nell'area di Castel Volturno, quando è stato un errore di De Luca. Quei 20.000 immigrati sono quelli che già sono presenti sul territorio. Ma la pacchia è finita, come, sì, come... subito smentita, però De Luca, cioè, sì, è stato solo un errore dal punto di vista semantico, invece anche di arrivare perché, perché noi... l'hanno cavalcato subito, l'avrebbero fatto anche se non avessi sbagliato, esagerato. Hanno usato Domizia subito, come è successo, subito andata a bloccare la Domizia, ridicolo, ridicolo. Io sono molto contenta che abbiamo potuto affrontare questo aspetto, tra i tanti aspetti, perché comunque la mancanza di trasparenza, no? Cioè il volere comunque mettere confusione in questi, diciamo così, realtà, nei confronti di questa realtà, che poi porta comunque alla cattiva informazione e porta comunque al danneggiamento del lavoro che fate. Quindi sono molto contenta di aver potuto fare questa domanda e della risposta, insomma. Volevo chiedere una cosa, se prima di andare avanti, se avevate qualche altra cosa. Ti faccio un pochino da avvocato del diavolo stasera, Antonio. Secondo te, cioè, il sistema SPRAR, tu hai detto che funziona, ma è sempre così dovunque, sistematicamente? Oppure da un certo... No, io quello che penso, da qualche parte l'hanno tirata fuori quella che poi si è gonfiata, come i 35 euro, gli alberghi, eccetera, eccetera. Da dove è saltata fuori? Comunque ci sono state anche, comunque, ci sono delle situazioni, situazioni di sparare in cui... in cui c'era qualcosa di sporco in mezzo, a cui magari è stato giustamente... Gli SPRAR hanno una rendicontazione veramente così, così ferrea e così rigida che è quasi impossibile sgarrare. Quello che la destra sovranista ha cavalcato sono invece proprio i CAS, i centri di prima accoglienza. Noi a Caserta abbiamo sul Violone Carlo III, che forse tu ti ricordi, l'Hotel City, che praticamente è un CAS. Cosa è successo? Come succede molto spesso in Italia, a Foggia, nel meridione soprattutto, ristoratori, albergatori che senza alcuna competenza, senza né arte né parte, si improvvisano gestori dell'accoglienza, prendono la loro struttura, la riempiono di immigrati, sono gestiti dalle prefetture, questi centri, in modo completamente diverso dagli SPRAR, non dai comuni, non c'è una rendicontazione rigida, questi falsificavano i registri delle presenze per la scuola di italiano, insomma, non offrivano zero servizi e si intascavano i soldi, cosa che, ti assicuro, con uno SPRAR è veramente, veramente impossibile. Noi abbiamo quelli dell'ufficio rendicontazione che si fanno veramente un culo come una capanna ogni volta per presentare le carte in tempo, perché non può mancare manco una virgola. È una delle cose migliori, tra l'altro, anche fa parte anche della proposta di legge che è finita in Parlamento qualche mese fa, che si chiama Ero Straniero, una proposta, insomma, per dare un permesso di soggiorno di un anno per tutti quanti, per tutti gli immigrati, riconvertibile o in lavoro, in permesso per lavoro, nel caso si trovi lavoro, oppure in un rimpatrio assistito sicuro. E soprattutto nell'implementazione dello SPRAR, nella diffusione capillare dello SPRAR e nell'eliminazione dei CAS, che sono dei centri veramente, veramente allucinanti. Lì c'è veramente il business dell'accoglienza, lì c'è veramente la cattiva accoglienza, c'è zero servizi e tanto business molte volte. Ma diciamo che per i CAS vale lo stesso discorso che vale per gli irregolari. Gli irregolari servono ai sovranisti. Una cosa su cui è importante, secondo me, fare chiarezza è che la destra sovranista non ha mai voluto il rimpatrio degli immigrati, ma per il semplice fatto che il rimpatrio è impossibile. Il rimpatrio in Italia funziona che tramite i cosiddetti accordi bilaterali, che sono degli accordi che l'Italia ha con i paesi di provenienza. E su tutti i paesi disparati da cui arrivano dall'Africa, l'Italia ha tipo soltanto 4 accordi bilaterali. Quindi è praticamente... Libia, tipo? Ma è difficilissimo e impossibile, molto difficile, scusami, rimpatriare le persone, è anche molto costoso. Costoso, quindi, sì. Infatti. Quindi non, ma questo non interessa, perché a questo tipo di idee si interessa che avere sul territorio tantissimi irregolari che possono finire nelle maglie del caporalato, ma nelle maglie della criminalità organizzata. Perché devono avere sempre il destro pronto per gridare alle streghe. Per colpire, è chiaro. Ma questa era come fece Berlusconi quando riempì... Infatti sì, scusami se concludo una cosa. La cosa, se veramente Salvini volesse liberare l'Italia dagli immigrati, paradossalmente la cosa più intelligente da fare sarebbe dare un permesso di soggiorno, una protezione umanitaria, quella più lunga di 5 anni, a tutti quanti, perché è un tipo di protezione che garantisce la mobilità sul territorio europeo, e ti assicuro che qualunque immigrato, se potesse, se ne andrebbe in Europa, lontano dall'Italia, perché qua è difficile lavorare, si lavora male, si lavora poco. È una cosa... Noi parliamo dei Salvini e della Lega, ma in realtà ricordiamoci che metà del Movimento 5 Stelle era uguale, a partita di maggio. Per semplificare, insomma. Per correttezza, a noi ci piace sempre dirlo, insomma, che... Certo, certo. Che diciamo Di Maio non era da meno, insomma. No, assolutamente, per carità. Più o meno credo che i problemi siano nati dalla legge Bossi-Fini in poi. Se vogliamo mettere un punto di partenza, diciamo così, fittizio, credo, mi sembra. Non so, sì, se... sì. È una legge che era già terribile, che non è stata mai cambiata neanche quando c'è stato il governo alla sinistra. Perché non c'è stato il governo alla sinistra, sto volendo dire una cosa molto banalotta, populista, forse, così, però perdonatemi. Devo aggiungere che forse l'unica cosa buona che ha fatto Renzi, forse l'unica, è questa cosa degli SPRAR, perché c'era lui quando nacque questo modello, nel senso che c'è il trattato Schengen, no? Per quello che prevede sostanzialmente che gli immigrati vengano accolti nel paese di primo approdo, cioè chi sbarca nel paese dove sbarchi devi essere accolto sostanzialmente, questo prevede il trattato Schengen tra le tante cose. E praticamente l'accordo che fece Renzi sostanzialmente: ok, noi accettiamo questo primo approdo, però voi ci date i finanziamenti per gli SPRAR. Quindi, altra cosa che non ho detto prima, i soldi degli SPRAR non sono soldi italiani, sono soldi per il diritto all'asilo, sono soldi europei, sono assolutamente totalmente soldi europei. Quindi chi grida i soldi italiani, soldi dello Stato agli immigrati, dice un'altra grande cazzo. È banale come cosa, però purtroppo questo è questo nasce dal flusso delle notizie, dal principio più facile, quello del fatto che io posso gridare quello che mi pare, tanto non è che chi mi ascolta andrà a leggere se è così o no, quindi c'è tanta Allora, quindi Antonio, com'è la realtà adesso, cioè in questi mesi di Covid? Che cosa avete fatto, che cosa non avete fatto, sì. Quali difficoltà avete avuto e come vi state organizzando e raccontaci un po'. Ma come ci dicevamo anche tra di noi prima, sostanzialmente il Covid non ha fatto altro che accrescere le disuguaglianze, accrescere i problemi, nel senso chi era povero prima è ancora più povero adesso, chi era invisibile prima è ancora più invisibile adesso. Noi sostanzialmente, come progetto abbiamo ovviamente interrotto gli appuntamenti in sede con i ragazzi, quindi i ragazzi stanno a casa nei vari appartamenti, hanno ricevuto tutti quanti i dispositivi di protezione individuale e c'è una situazione molto critica su Castel Volturno, Castel Volturno è un ghetto, ma è un ghetto da anni, ci sono 20.000 immigrati che vivono lì sfruttati, insomma, sul litorale Domizio, sia nei campi che nell'edilizia, che anche nel settore turistico, quindi fra i vari lidi balneari, insomma. E la situazione adesso, sono stati praticamente tutti quanti ovviamente a casa durante l'emergenza, perché ovviamente sono per la maggior parte irregolari, quindi uscire fuori era ancora più pericoloso per loro. E tra i miei colleghi che hanno gestito il centralino su Castel Volturno, perché noi abbiamo fatto questa cosa nuova che si chiama Caserta Solidale da quando è partita l'epidemia, che è un servizio di centralino che offre assistenza per la consegna a casa di farmaci e generi alimentari per le persone che non possono uscire di casa, quindi parliamo di anziani, invalidi, immunodepressi, insomma chiunque non fosse nelle condizioni di uscire. Io personalmente mi sono occupato del centralino per gli italiani su Caserta, ma molti miei compagni che hanno avuto un lavoro molto più duro del mio hanno gestito la situazione su Castel Volturno, quindi tante persone che non andando più a lavorare manco nei campi, manco a fare più gli ambulanti, essendo completamente esenti da qualunque tipo di sussidio, da qualunque tipo di assistenza, da qualunque tipo di riconoscimento istituzionale, sanitario, sono praticamente in una situazione tragica. Quindi stavo cercando di recuperare i dati del centralino che vi avevo mandato per fare un po' darvi un po' un'idea. Comunque abbiamo avuto tipo 600-700 chiamate solo sul centralino di Castel Volturno per consegna pacchi, proprio. Ma a Caserta, per dirti, noi consegnavamo i pacchi, ma insomma andavamo prima a casa delle persone a ritirare i soldi, poi andavamo a fare la spesa, insomma, per le famiglie benestanti. A Castel Volturno dovevamo rapportarci con la Caritas per la consegna dei pacchi alimentari, perché molte persone non avevano più soldi materialmente per mangiare. Abbiamo dovuto portare a casa bombole del gas, mascherine a volte. E una situazione veramente una bomba sanitaria pronta ad esplodere, noi l'abbiamo chiamata. Poi c'è stata anche una situazione di un pericolo di assembramenti, perché quando sono usciti i sussidi molte persone sono corse a farsi una post pay per poter provare a ricevere il sussidio. È una situazione molto molto molto delicata. Noi speravamo con questa sanatoria che è uscita ieri che potesse esserci una regolarizzazione seria, insomma, per tutti, per poter permettere un'emersione di queste persone, e sia per ricevere assistenza sanitaria sia per tutto, insomma. Mi hanno chiamato anche dei ragazzi che avevamo in accoglienza prima e che sono usciti perché era finito il tempo e sono andati, adesso vivono a Castel Volturno, che non sapevano come fare con le medicine, non sapevano come andare dal medico. Uno mi ha chiamato: Antò, ma il medico qua non mi riceve, come devo fare? Neanche a noi il medico ci riceve. anche a noi. È una cosa incredibile. Lui non gli risponde manco al telefono, al povero Mutalla. Senti, facciamo un attimo un break, secondo sì. Solo, così ci ascoltiamo un attimo questo brano, che ovviamente, come dice Michela, l'abbiamo già messo diverse volte, sicuramente, ma quelle diverse volte le mettiamo sempre perché secondo me c'è un senso. E secondo me questo brano purtroppo, non soltanto, vabbè, Mirko il cane comunque, cioè nel senso, a parte che non so ancora se, perché è difficile reperire informazioni aggiornate, quindi potrebbe anche aver deciso di andare a fare il panettiere, io non lo so, però in linea di massima insomma è un brano che si ascolta poco, anzi non si ascolta per niente, e invece è uno di quei brani che uno dovrebbe ascoltare perché è particolare il fatto che parte in una maniera e tu hai capito insomma di che sta a parlare, però non è che sei, e poi dopo alla fine è un po' una mazzata, insomma, e poi io mi ricollego con la domanda che faccio a ritorno. Mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma, perché si sente male, grida, piange e non la smette più. E per 3 giorni si nasconde e non si fa vedere. Ma oggi è un giorno felice che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il calciatore. So già palleggiare, con i sassi è diverso, ma sono avvantaggiato perché corro forte come il vento e allora volo alla radura insieme agli altri bambini. Chi arriva ultimo in porta e sai che rottura di col... Arrivo primo come sempre, allora sono attaccante. Scatto, dribblo, tiro in porta ed il portiere non può farci niente. Poi da più lontano sento: Mario, vieni qua, prendiamo tutto quel che abbiamo e raggiungiamo papà.

tutelato dallo Stato da anni, continua a morire di fame, ed ecco che insomma il politico di turno gli dà in pasto una notizia su cui sfogarsi sostanzialmente. Questo è il meccanismo che si instaura sempre, ed è così anche su Castel Volturno, con quello che sta dicendo il sindaco ultimamente su questo attacco a questa sanatoria, che poi manca una vera sanatoria, insomma. E nessuno dice invece che a Castel Volturno tenere gli immigrati irregolari conviene, perché si pagano un sacco di soldi di fitti a nero dai neri, passatemi il gioco di parole. Uh-huh. Ci si continua a guadagnare sopra, così come ci continuano a guadagnare quei datori di lavoro che pagano 1,50 euro, 2 euro l'ora la gente a lavorare nei campi. Io di storie ne ho sentite in prima persona, perché una volta che lavoravo nell'ufficio legale della nostra associazione, mi occupavo di aiutare i ragazzi a fare le domande di richiesta per il permesso di soggiorno, che poi andavano a fare in questura, e sentivo quindi tutte le loro storie in Italia e a partire dal viaggio in Africa fino in Italia. Quindi parliamo di uno sfruttamento senza limiti, senza limiti. Quindi... Se posso intervenire soltanto al volo sulla domanda di Leo, no? Lui dice dove nascono le fake news. Allora, io mi ricordo che noi abbiamo fatto già uno speciale con Vannini, però magari ci ritorniamo anche su questa questione. Sì. Il problema è che secondo me il politico che fa la storia dei 30, cioè il Salvini che fa la storia dei 35 euro, come dicevamo fuori onda, facendo credere alla gente che in realtà si 35 euro, pare che noi gli diamo 35 euro in mano all'immigrato e poi lui se va a sballare o va a beve o se qualsiasi altra cosa, no? In realtà il discorso è molto più complesso. Il fatto sta anche nel fatto che chi utilizza questi strumenti in realtà è un terminale, cioè Salvini è il terminale di un lavoro che sta dietro, no? Poi è anche facile, perché comunque la gente oramai è completamente disabituata, perché ricordiamoci sempre, no, il meme, quello famoso, noi ogni tanto lo ricordiamo, quello della foto dei Pacciani, povero Tommaso, pensionato, 78 anni, non arriva a 450 euro di pensione, Abdul Sameb bla bla, che invece prende 4.000 euro dati dal governo Renzi. Cioè, la gente condivideva a rotta di collo, a prescindere, schifo. No? Io l'ho fatto con la foto di Ray Charles una volta, che ci rubava le pensioni in validità civile. Quindi... Poi c'è sempre quello di Aruspa Akbar. Ah, sì, esatto, quella costa. La foto dei Salvini modificata, sì. Cioè, quindi vedi che poi alla fine, cioè, ragazzi, cioè, questi parte da un principio scientifico, ma poi ritorna sempre il tema, insomma, quello della, purtroppo, del leone da tastiera, diciamo così. Dai. Sì, ma ragazzi, un paese povero come il nostro è un paese che non ha i mezzi per avere senso critico. Che è un paese povero, è un paese che sì, poi diciamo che questi... anche la distruzione della scuola negli ultimi 35 anni, esatto, ha aiutato molto. Là volevo arrivare, infatti, un paese che non investe più nella scuola, non investe più nella ricerca. La gente povera, più è povera, più non ha i mezzi per comprendere la realtà, e più si affida alle prime boiate che le vengono messe in bocca, soprattutto se le consentono di sfogarsi immediatamente e facilmente. Ma io mi ricordo, ad esempio, cioè noi studiavamo educazione civica. Io quando ero un ragazzino sapevo come funzionava a grandi linee, no, lo Stato, no? Quindi oggi c'è ancora gente che ti dice ma il Presidente del Consiglio non è eletto dal popolo, no? Cioè. Sì, vabbè. Dici l'esempio che ci stavi facendo, Antonio, se no. Sì, ah no, sì. No, mi viene in mente la questione pure della Sea Watch e della Diciotti, no? Che stanno arrivando, stanno sbarcando sul nostro suolo, ci stanno invadendo. Ne parlavamo di quanti, 40 persone, mentre il giorno prima ne erano sbarcate in silenzio 200. Nel senso, è una cosa che poi è proprio fine proprio a una presa per il culo, una propaganda, non affonda neanche. Non è neanche un odio sincero, è semplicemente una ricerca, un accalappiamento dell'elettorato. Sì, è caciara, è buttarla a caciara. Io c'ho più una curiosità a livello umano, no? Poi perché anche poi, Francesco, cioè, l'aspetto umano mi interessa sempre particolarmente, perché poi sì, diciamo così che il tuo settore... Salutiamo Ciro Capasso in chat. il tuo grande. ciao Ciruzzo. Anche grande. Membro salutiamo, anche non membro, capisco già. Perché e mo si chiama membro adesso e vabbè e, allora la mia curiosità è prettamente umana, no? Perché io poi fondamentalmente sei umana fondamentalmente. No, fondamentalmente vabbè faccio un lavoro che è tutt'altro, però c'ho a che fare con tantissima gente. E poi magari cioè, arrivano pure da me quelle che dicono è tutta colpa dei negri se noi non ci abbiamo i soldi per pagare l'assicurazione. E allora uno gli dice vabbè, ma sai Borini, quello diciamo prima sull'iPhone c'è, c'è sta il figlio, il figlio di quella signora che comunque ti abita vicino casa, cioè come se tuo figlio avesse vissuto che ne so un naufragio in mare eccetera. Allora piano piano la gente poi si addolcisce, quindi c'è proprio questa curiosità di capire come la comunità interagisce all'interno del tuo diciamo così del tuo settore. E poi tu mi hai detto che comunque poi la comunità riesce in qualche modo a essere diciamo così abituata o comunque a convivere con queste persone, no? Con questi immigrati, e condividono gli stessi problemi. Ma se tu ti scontri praticamente con loro, se ci sono magari discussioni, litigi o altro, se ci sono stati magari episodi particolari che ci vuoi raccontare? Ma guarda, l'idiota di turno si trova sempre, però ti posso dire, come ti dicevo prima, laddove c'è condivisione veramente di un percorso tra italiani e immigrati, che sia come dicevamo prima col Piedibus, che poi che sia con la riqualificazione dei beni comuni della città, che sia nella lotta per dei diritti come era quello del rimborso dei buoni libro eccetera, le persone questo razzismo cade immediatamente, perché riconosci l'altro come un quindi come le tensioni, cioè è possibile comunque in una comunità sana ridimensionare le tensioni, ma solo, secondo noi è l'unica strada, perché noi veramente noi possiamo stare da qui fino all'eternità a discutere di come funziona la bestia, di come funziona la macchina di propaganda sovranista e tutto il resto appresso. Giusto. Queste persone purtroppo con i discorsi che facciamo noi, se mai ci stessero sentendo in questo momento, non cambierebbero opinione. L'unico modo è la partecipazione, soprattutto l'unico modo è migliorare le condizioni di vita di queste persone, riempire queste pance che sono vuote e sono incazzate praticamente con qualcosa di concreto. Perciò noi facciamo una grande battaglia anche per il reddito, secondo noi è uno strumento fondamentale per superare questa fase, che non è cioè, ovviamente il reddito appezzottato, se mi passate un termine, delle mie parti che hanno proposto i 5 Stelle, che aveva criteri assurdi, molto stringenti, un sacco di persone pochissime persone lo percepivano appieno, un sacco di persone pigliavano poche centinaia di euro, però il reddito di cittadinanza, come lo vogliamo chiamare, anche se cittadinanza è un termine un po' anche quello un po' sovranista, no? Perché presuppone una cittadinanza. Presuppone una cosa identitaria, una roba nazionalista, no? Ma il reddito, cioè ridistribuire un po' la ricchezza, perché la ricchezza è una cosa che insomma, un po' come i vasi comunicanti, la ricchezza si distribuisce tra la popolazione. Se c'è pochissima ricchezza da una parte, vuol dire che c'è tantissima ricchezza da un'altra parte, sempre in una parte più ristretta. Non è che siamo diventati tutti quanti poveri all'improvviso. C'è una parte della popolazione che diventa sempre più ricca, una parte piccolissima, e tantissima gente che diventa sempre più povera e più incazzata. Certo. Quindi l'unica strada, siccome poi purtroppo siamo anche siamo nel terzo millennio, ormai di lavoro umano ce ne sarà sempre meno bisogno, perché come diceva spesso anche un mio compagno, se prima per fabbricare una penna, per dire una stronzata, ci volevano 20 operai, adesso ne basta uno. E sarà sempre così. Ha voglia di dire che bisogna dare gli sgravi alle aziende, ma il lavoro ce ne sarà sempre, sempre, sempre meno. L'unica strada è ridistribuire veramente la ricchezza. E noi calcolate che siamo il paese con il più alto tasso di evasione fiscale in Europa, e un paese in cui l'80% della ricchezza forse è in mano a 15 persone, veramente 15 persone. Quindi l'unico sistema sarebbe innanzitutto combattere l'evasione fiscale, poi mettere una patrimoniale. Adesso stavo leggendo che in Spagna quelli di Podemos la stavano proponendo, una patrimoniale. Ma per dire, la Spagna e il Portogallo sono paesi che comunque hanno un reddito molto, che funziona molto meglio, una specie di reddito di cittadinanza che funziona meglio. Perché? Perché i soldi li prendono da dove li devono prendere, li prendono dai ricchi. Non fanno cose, insomma, a sforare il bilancio come hanno fatto i 5 Stelle, che poi... Sì, da noi è solo demagogia sta cosa, cioè, regali i soldi per fini elettorali, no? senza andarli a prendere dove li dovresti prendere, insomma. Io poi non parlo perché c'ho il mio modello socialista dell'universo, quindi è un po'... Però... Sì, a noi ci hanno praticamente annullato i visti in America, quindi... Vi ricordo che io sono iscritto al Partito Comunista degli Stati Uniti d'America, quindi importante. Ci scordiamo l'America. Ci pizzi. Scusa, non mi possono cacciare perché sta da loro, è loro, mica sta da me. Vabbè, comunque Francesco, invece allora, tu volevi... Sì. Sempre, allora, tenendo come filo conduttore questo che è emerso adesso delle fake news, però ritornando news. Anche sì, fake news. E ritornando però al periodo di adesso, quindi all'attualità, io spesso, anche parlando con delle persone che sono dei clienti, che sono soprattutto dei vecchietti, vedo soprattutto tra di loro, anche tra quelli là non razzisti, no, altro, comunque si è diffuso un pochino sta fake news che gli emigranti non sembrano che siano immuni al virus, che non, perché non li, nessuno li vede, cioè non frequentano gli ospedali, nessuno fa i test, nessuno li vede al pronto soccorso, altro, perché avevano probabilmente fatto una vaccinazione nei loro paesi particolare contro la poliomielite, non lo so, contro la tubercolosi, qualcosa, e allora loro non si ammalano. Antonio, smonta sta cosa, ti prego. Prima che Antonio smonti sta cosa, lo sapete che oggi una parlamentare del Movimento 5 Stelle in Parlamento ha fatto la supercazzola, che ci ha messo il 5G, Bill Gates, i nostri bambini, la cosa, no, come il complottismo farmaceutico, sì. Tutto insieme, cioè, tutta fa la più bella è arrivata ieri, che mi ha passata una piccola vedetta, e la più bella, non so se l'ho passato, che recita così, il tempo di trovarla, eccola: il riscatto di Silvia Romano l'hanno pagato Bill Gates e gli islamici per vaccinarci con un microchip 5G testato dai Marò a Bibbiano. Fantastici. E perché la vai è così, ma anche questa, cioè oggi in Parlamento stavano a far sentire su Radio Capital, questa ha fatto una super cazzola incredibile, che è la stessa che dicono tutti, però, cioè, nel senso, in Parlamento, ma d'altronde questi così l'hanno costruito il gruppo parlamentare, andando a prendere quattro straccioni. Ma io penso che il complottismo lo affronteremo con Everything, perché è importante anche dal punto di vista scientifico. Non sia mai che magari troviamo qualcuno che ce lo spiega. Ci dovesse telefonare Bill Gates, io gli dico subito di sì. Io veramente ho già espresso la mia volontà di offrirmi, allora, come cavia, vabbè, per il vaccino. Mi viene in mente subito una battuta di Guzzanti, paracitando Guzzanti, quando faceva Guzzanti, non so se ve lo ricordate, quando faceva l'imitazione di Maroni. Sì. Di Maroni, di Tremonti, scusami. Sì. Simon Comano. Guzzanti, facendo Tremonti, adesso avrebbe detto: se anche non ci fosse stata questa crisi, noi li avremmo fregato lo stesso. Questo avrebbe detto sostanzialmente, per dire che non c'è bisogno di credere a nessun cazzo di complotto, perché nel culo ce l'hanno già. Ma infatti, cioè, le cose, se vuoi essere antisistema, sono molto più semplici, cioè, nel senso, comunque il sistema ti incula, cioè, ma senza mettere la terra piatta, i chimici, il 5G che ci fa ammalare, capito? Cioè, nel senso, non c'è bisogno. Allora, intanto la risposta alla domanda di Francesco. Sì, 42. Francesco. No, guarda, che siccome poi parliamo sempre appunto di ignoranza e di povertà culturale, come dicevamo prima, è una credenza, è una falsa credenza che si era instaurata stesso tra gli immigrati, perché parliamo pur sempre di persone povere e con mezzi culturali, se possibile, ancora inferiori a tante italiane. Quindi anche tra loro si era sparsa a un certo punto questa voce, poi loro hanno un sacco di credenze tribali, voodoo, insomma tutte queste cose qua, anche loro a un certo punto pensavano di essere immuni, di non avere il virus, tutte queste cose qua. Semplicemente un problema, ripeto, di cultura, è un problema di accesso al sistema sanitario, sono persone che non sono state mai cagate di striscio per un tampone, per niente. E come leggiamo su un articolo pure oggi, se arrivavano direttamente in terapia intensiva quasi già morti, quindi neanche gli veniva fatta probabilmente un'autopsia, quindi sono numeri che sono completamente sfuggiti alla protezione civile, a qualunque istituzione. Poi di base sì, un dato può essere vero, che comunque sono per la maggior parte giovani, perché arrivano nel nostro paese i più giovani, sono quelli che tentano il viaggio della fortuna per lavorare qua nei campi, i giovani si ammalano di meno, anche questo è vero, ma di base c'è uno scarsissimo accesso alle cure, all'informazione soprattutto, tanto è vero che come Caserta Solidale per Castelvolturno noi giravamo per le strade di Castelvolturno col megafono per spiegare agli immigrati cosa dovevano fare in questo tempo di emergenza. Interessante, molto. Allora, io intanto per restare sull'attualità farei un piccolo cenno, come abbiamo detto, alla sanatoria che è stata in qualche modo confermata ieri da Conte, e quindi il tuo punto di vista, diciamo che essendo comunque nel pieno fulcro di questo tema, ci interessa più di tutti, insomma, quindi lasciati la parola su questo, che ci vuoi dire? Ma guarda, come vi dicevo anche prima, io tra l'altro sono operatore dell'inclusione, ci sono compagni più esperti di me che lavorano sulla questione legale, sulla questione dei documenti, che potrebbero parlare molto meglio di me di questa cosa, però fortunatamente, come vi raccontavo, io stamattina sono passato in bicicletta per fare un giro davanti alla questura di Caserta e c'erano i miei colleghi che facevano gli accompagnamenti consueti degli immigrati in questura. Erano per la maggior parte insomma persone di Castelvolturno per la questione dei documenti, e stesso gli impiegati della questura ci hanno detto insomma: ma che cazzo l'hanno fatta a fare sta cosa, se non serve a niente? Se dovevano farla era meglio che la facevano fatta bene, insomma, perché è una cosa che a quanto pare non andrà a incidere sullo 0,02% della popolazione e non aiuterà nessuno, pochissime persone sembra, da quello che hanno capito i miei compagni, anche se un po' incasinato il decreto, che servirà a sanare le persone che hanno avuto un permesso scaduto ad ottobre, insomma ad ottobre dell'anno scorso, senza contare tutta la miriade di persone che stanno qua irregolari da 20 anni, che si spaccano il culo nei campi da 20 anni, quindi è una cosa che non serve a un cazzo. Ma la regolarizzazione veramente, anche qua c'è da capovolgere un paradigma, secondo me, cioè nel senso, molte volte anche tra persone in buona fede, tra persone anche di sinistra, come le vogliamo chiamare, c'è questa falsa credenza che insomma che è una questione di bontà, di buonismo, di umanità, dare un permesso di soggiorno a queste persone. In realtà è una questione che salva tutti, perché dare permesso di soggiorno a tutti vuol dire dare la possibilità a tutti di essere regolari sul territorio, di pagare le tasse, di pagare regolarmente un contratto d'affitto, di mandare fare qualunque cosa, di essere iscritti all'anagrafe, di pagarsi un corso per la patente, qualunque cosa, e soprattutto evita a queste persone di finire tra le braccia della criminalità organizzata. Che è proprio quello che non vuole invece la destra, perché la destra fa sempre comodo l'immigrato che finisce in prima pagina per una rapina, per uno stupro, per qualunque cosa. Ma anche perché poi hanno il doppio vantaggio: uno, questo che dici tu, e due, che comunque fanno comodo l'amici loro, perché insomma. Sì, ma tra l'altro poi la situazione è preoccupante. Mo stavo rileggendo le dichiarazioni di Boeri, che è il presidente dell'INPS, credo ex presidente ormai dell'INPS, che dice praticamente che solo gli immigrati regolari, che sono comunque una piccola fetta della popolazione, solo quelli stanno tenendo in piedi il sistema pensionistico italiano. E in un paese a crescita zero come il nostro è veramente certo. preoccupante, non adesso ma tra vent'anni sarà veramente preoccupante, perché non si fanno più figli, e poi sono persone che fanno obiettivamente delle professioni che pochi italiani sono disposti a fare. Bene, molto bene. Allora io direi che c'è per esempio c'è il brano sì, infatti, che penso che Francesco lo vuole introdurre. Vai. Lui giusto? No, lo deve introdurre al più Antonio, credo. Ah, più Antonio. Io intanto non mi ricordo il brano che avevamo scelto. No, mi sembra sia Istinto alla Rivoluzione, esatto, di sì. Califo Ground, esatto. Che è se due parole per introdurli di nuovo. È un gruppo formato da un compagno del centro che è Gianluca Castaldi, che è un ex missionario comboniano che ha fatto una vita in Africa prima di, insomma, di convertirsi. Missionario religioso? Sì, era un prete. E poi è diventato comunista. Poi è diventato, sì, esatto, una storia stranissima. E poi magari avremo poi lo voglio conoscere io questo, lo voglio intervistare, sì, assolutamente. Sì, ma infatti ve lo dico adesso, visto che ne parliamo, ve lo devo dire in privato, ma avevo in mente di invitarlo qualche volta perché c'ha delle storie sulla sua permanenza in Africa che fanno schiappisciare sotto. Ah, guarda, infatti non è solo un tema, ma possono anche essere storie di persone, cioè, voglio dire, quindi noi bello, bravo, basta, a posto, poi ci organizziamo. Assodato, è già dato per Califo Ground, appunto, tornando al discorso di prima, è il nome con cui gli immigrati chiamano le cosiddette piazze degli schiavi, che sono giù in Campania sono le cosiddette rotonde, le famose rotatorie per la strada. Sono posti in cui gli immigrati vanno alle 5 della mattina, arriva il caporale e al ribasso li prende per andare a lavorare o nell'edilizia, nei campi, insomma, in queste cose qua, a chi si piglia di meno, sostanzialmente, certo. Per dirla a breve. E è un gruppo nato dopo la strage di Castel Volturno, voi l'avete accennato durante la trasmissione del 1° maggio, mi ricordo. Ripetita a Juvent, però. Morirono 8, credo 8 immigrati, adesso la memoria mi tradisce, ma insomma una strage di camorra, fu una strage sostanzialmente intimidatoria, perché poi quell'anno ci fu il primo storico sciopero delle rotonde, non avevano mai scioperato gli immigrati grazie insomma al lavoro che abbiamo fatto con loro, al movimento migranti e rifugiati di Caserta, ci fu il primo sciopero che aveva tra gli slogan "oggi non lavoro per meno di 50 euro, insomma, per chiedere dignità sul lavoro di queste persone. E quindi nacque questo gruppo come riscatto. Gianluca è il membro fisso che crede pedissequamente in questa cosa, ma si sono alternati un sacco di ragazzi alle percussioni, al basso, insomma, alla voce. E oggi, se ti devo dire la formazione, non me la ricordo, perché Gianluca ne cambia talmente tanti, perché poi chi se ne esce, perché va a lavorare, chi vabbè, se ne esce, dai, l'importante è un bel gruppetto, insomma, spero vi piaccia. Quindi Istinto alla Rivoluzione dei Califo Ground. Ok, ce l'ascoltiamo subito. Si dichiara di sinistra ma non sa perché. Lui è radical chic che non fa mai male. Boicotta all'occorrenza, compra eco solidale. Visione globale, una missione sociale. L'acqua goccia a goccia pure quando va a pisciare. Molti slogan, zero analisi, ma il mosso di coerenza. Aprire il frigorifero è un esame di coscienza. Non mangia mai dal normale italiano. Lui è vegetariano, anzi oltre vegano. Lotta per la vacca che soffre nella stalla, ma non per l'operaio che a spalare la sua merda. Non è rivista, lui non segue la massa. Ha sempre un'opinione alternativa quanto basta. È di sinistra, ecologista, femminista e pacifista. Qui non urla mai, cerca dialogo, che poi ci parli insieme e fai monologo. E a questo punto io non so che dire, cerco un comunista ma lo cerco in vecchio stile. Ta tasche piene della classe borghese che non parli di coerenza ma di rivoluzione. Se ecosostenibile la sua militanza è un problema che si pone, dando fuoco a un fascista. Forse sono banale, poco alternativo, muovo in chiare le ragioni, l'ideale in cui credo. Mi pianto la forchetta in una bistecca a sangue, le gianne alle bombe, se per la lotta di classe. Ho un istinto alla rivoluzione, il pulso primordiale dentro me. Questa Italia tutta da rifare, dove tutto va a puttane, non trovo un perché. Dove tutto va a puttane, non trovo un perché. You say I'm illegal because I'm immigrant. Tell me who you are, we are image of God. Fuck the government, nigga, we play guilty. Fuck the parliament because they are too filthy. Great laws, I sit there alone, get a purpose. Because of their victory, many of us are victim. When we are moving forward, they try to pull you behind. It's so jungle, get ready to ramble. If I tell you my story, you already tell me you are sorry. I know where I'm coming from, I know where I'm going to. Every day on television, radio news, you always speak about negative side of my people. Cerco così una canzone per chi ascolta e mi capisce, ci si riconosce, capito, batte un colpo, piano piano risorge. Il pulso primordiale ci scorre nelle vene, lavoratori, sciopero, studenti nelle scuole, rifiuti di quartiere, migrante a Lampedusa, in piazza tutti quanti, in piazza finché dura. Ho un istinto alla rivoluzione, il pulso primordiale dentro me. Ed è difficile questa sera rientrare in diretta tra un brano e l'altro, perché parlano sotto e non smettono di parlare, con il potere della sintesi, che è il superpotere di Michela. Ah vabbè, senti chi parla. Comunque ho trovato, ho trovato. Allora, rientriamo in trasmissione bellissima, bellissimo il brano. Forti sti ragazzi, che sicuramente poi magari avremo modo, insomma, di affrontare questa storia, queste storie, perché a noi ci piace anche raccontare di persone che hanno fatto esperienze, che hanno conosciuto cose, bello, bello. Io se no vi racconto di quella volta che ho conosciuto quell'albanese. No vabbè, no, non vogliamo sapere. Allora, Francesco, in una notte cecoslovacca. Francesco, tu ci avevi una domanda per Antonio. A bruciapelo, Antonio. Vai. Tu sei in campagna, De Luca. In generale, ma soprattutto riferito a voi, alla situazione dei migranti in generale, ma soprattutto a voi, se vai. Via, ruota libera. De Luca, ma De Luca, mi ci faccio delle grasse risate, insomma. Anche noi. È obiettivamente, come dice Verdone, un personaggio cinematografico. Infatti Verdone lo vuole in un suo film a breve, a quello che ho letto. Ah, ma sembra un po' Gassman quando parla. Sì. C'ha proprio sta parlata un po' gasmaniana, capito? Sì, molto baritonale, insomma, fa molto è più gente del mondo, chiaramente, quindi non me lo offende. Poi sta in campagna elettorale, nel 2021 stanno le regionali in campagna, quindi si sta spendendo. Noi, guarda, con De Luca noi stiamo in vertenza anche con la regione, perché lo spazio che ci hanno chiuso per motivi strutturali l'anno scorso, con tanto di sciacallaggio salviniano, è di proprietà della regione Campania, che non ha mai voluto ristrutturarlo, nonostante 20 anni di nostre segnalazioni, anche di bande intercettate da noi che avrebbero permesso di ristrutturare senza spese per la regione quella struttura. E la regione ha fatto sempre orecchie da mercante. Ci sono altri interessi su quella struttura, interessi economici, ma diciamo, su questo come su altro De Luca non ci sente. È molto bravo a spendersi mediaticamente, a fare il simpaticone, anche molto, devo dire, anche molto divertente. Cioè vabbè, è un politico poi alla fine, quindi i politici fanno i politici, no? In qualche maniera, anche quando ti aspetti che facciano cose, devono tener conto a x mille cose, no? Perché poi è così, sì, alla fine. Allora, prima... quindi niente presidente del mondo secondo te? Me lo immaginavo io però, eh. No, io a me rimane ancora il presidente del mondo preferito, poi dopo tutto fumo e niente arrosto. Almeno ridiamo. Okay. Come quando commentavamo con i compagni il periodo di persecuzione salviniano, il governo giallo-verde, dicevano, almeno con Berlusconi si facevano due risate, raccontava le barzellette. Sì, che poi magari il periodo salviniano, quel breve periodo, magari un'altra volta lo raccontiamo, magari mettiamo su un'altra piccola tavola rotonda, magari anche con altri soggetti, perché insomma sarebbe interessante di capire tutte le associazioni, i centri culturali, insomma, che poi alla fine comunque i centri sociali che magari fanno veramente attività e quello che hanno dovuto subire anche solo per propaganda politica. Insomma. Diciamo che io da spettatrice perché comunque... Aspettatrice? No, sì, magari ho sempre guardato con ammirazione queste attività, ho visto veramente le grandi difficoltà a crescere negli ultimi 20 anni, quindi avete assolutamente il mio più grande rispetto e la mia più grande ammirazione, perché comunque secondo me ci stanno dei rospi da mandare giù che sono grandi come macigni, quindi... Ma sollecitiamo gli ascoltatori di Runtime a partecipare a una petizione, per esempio. Sì, allora, ascoltatori di Runtime, sentite qua, perché questa è importante. Ma la petizione ce la deve spiegare Antonio, lui che l'ha messa. Certo, mica la spiega tu. Sì, ragazzi, io ve la lancio anche se so che non è una cosa che rientra nei vostri diretti interessi, nei vostri diretti bisogni, perché è una petizione che riguarda Caserta, sostanzialmente gli spazi sociali di Caserta. Vabbè, ma se uno guarda una mano, io non sono un simpatizzante delle petizioni online di questo tipo, è proprio perché ma neanche io, Simone, neanche io, nel senso che sono cose che lasciano il tempo che trovano. In questo momento sono semplicemente uno strumento come un altro per fare pressione sulle istituzioni, niente di più. Sappiamo che sono altre le cose che alla fine cambiano le carte in tavola. E no, ne approfitto proprio più che altro per parlare della situazione che sta alla base di questa petizione. Poi questa petizione chi la vuole la firma, insomma. Noi stiamo praticamente senza uno spazio dal 12 marzo del 2019. E come sede legale adesso abbiamo dovuto affittare un ufficio con i soldi del progetto, perché il progetto ce lo consente, ma prima avevamo uno spazio di oltre 3.000 metri quadrati che ci permetteva, oltre di svolgere le attività previste dal progetto, anche di assistere a un sacco di persone al di fuori di questo progetto, quindi le migliaia di persone di Castelvolturno e da tutta Italia che venivano, le famiglie italiane povere, un sacco di persone che hanno attraversato quei cancelli, hanno attraversato quella struttura. E per tornare un po' alla situazione che stiamo vivendo politicamente, insomma, perché ci troviamo in questa situazione, perché il sovranismo, noi a Caserta abbiamo un'amministrazione che non è leghista, non è di destra, è un'amministrazione di centro-sinistra, del PD, insomma. Eppure, nonostante questo, stiamo senza uno spazio, ci sono a Caserta un sacco di immobili vuoti, abbandonati, pronti all'uso per le associazioni, e l'amministrazione non ce li affida, non c'è verso, e preferisce tenerli vuoti, preferisce tenerci fuori, nonostante noi ci poniamo sempre in una logica di collaborazione con le istituzioni per provare a risolvere problemi. Non siamo quelli, come succede in teoria li dovrebbero assegnare, in realtà, no? Perché io mi ricordo che comunque, cioè, alle associazioni di un certo tipo, comunque le istituzioni dovrebbero concedere gratuitamente gli spazi, se non sbaglio, no? Sì, quello dipende un po' dai vari regolamenti dei vari indirizzi che adottano le singole amministrazioni comunali. La nostra, paradossalmente, appena si è insediata, aveva anche fatto uno strumento abbastanza intelligente che si chiama regolamento dei beni comuni, che regolamenta appunto i rapporti tra associazioni, cittadini e comune per la gestione e riqualificazione di spazi abbandonati. Quindi alcuni, parliamo anche di villette, di parchi, come è stato fatto qualche volta, ma anche di spazi immobili, di strutture, insomma, coperte. E nonostante questo, siamo da un anno senza spazio, nonostante il comune sia praticamente l'ente locale del progetto SPRAR, che questa è la cosa più paradossale, è il comune che riceve i soldi da Roma e poi dà i soldi a noi, anche se li dà con estremo ritardo, per cui io prendo lo stipendio ogni 5-6 mesi forse, il comune non ci assegna questo spazio, e sono queste le cose che poi danno il destro alla destra. E secondo te perché? Ma perché hanno paura di perdere poi consenso, hanno paura di essere scavalcati, e ne hanno paura che ci candidiamo, che ne so, anche se non è mai stato nelle nostre idee, non lo so, no. Poi ragioniamo anche su una cosa. Purtroppo non esiste il partito come un unico elemento unitario, né a livello nazionale, tantomeno a livello locale. È completamente una variegatura di correnti, di interessi, che è veramente difficile mettersi d'accordo su qualunque cosa, per cui magari c'è nell'amministrazione qualcuno che è favorevole a darti questa cosa, però ci sta quello là ammanigliato con la camorra che non vuole che l'associazione X faccia queste cose, perché poi sono cose che vanno contro la camorra, perché noi facciamo un sacco di cose, insomma, di emersione anche delle famiglie italiane da questi meccanismi nei quartieri. Praticamente cerchiamo anche di recuperare i ragazzi che passano il tempo a spacciare o passano il tempo davanti ai centri scommesse. Sono cose, insomma, abbastanza forse anche scomode. E quindi qualcuno ha paura di perdere queste cose, e c'è anche molta miopia, molta inettitudine, nonostante i colori politici che fanno un po' meno schifo di altri colori politici. Vabbè, d'altronde comunque vediamo associazioni che perdono magari sedi storiche, perché sì, comunque i governi adesso sono quello che sono, non sono in campagna, purtroppo. Noi a Roma diciamo così, l'ambito sociale lo stiamo guardando morire. Giovanna Cavallo, non so se la conoscete, il Baobab, che pure mi pare sia la conosciamo. Noi siamo molto amici di Giovanna, ma anche l'XM a Bologna è stato chiuso, in amministrazione di centrosinistra. Sono cose assurde, cioè sono quelle cose che poi materialmente fanno vincere poi la destra, perché non c'è più, è una finta sinistra, e è una destra che dilaga, perché proprio in mancanza di questa sinistra, questo è il discorso fondamentale. La petizione, io perciò ne ho parlato alla fine, perché poi ovviamente io preferisco sempre che venga, ed è normale che venga anche sottoscritta da persone che ci individuano un bisogno diretto, insomma, a Caserta, e che ritengano importante che questo spazio si apra a Caserta, però la volevo più usare per sottolineare un discorso generale, insomma. Sì, è un disagio comunque, cioè, firmando questa petizione alla fine è come se mettessimo un punto anche su tutto quello che sta succedendo nelle varie realtà italiane, insomma. Forse una piccola reazione a catena, ce l'auguriamo che possa in qualche modo generarsi, ci auguriamo che torni una sinistra, ci auguriamo che torni un vero, diciamo così, un vero supporto sociale, perché comunque il supporto manca, e io è quello che ho guardato, è quello che dicevo anche prima, cioè ho visto morire queste realtà, le sto vedendo morire, sto vedendo tanti Don Quixote che lottano contro i mulini a vento, e non ti voglio paragonare a un Don Quixote, però insomma, no, Massimo è San Giovanni, Antonio. È una lotta importante, e soprattutto purtroppo l'ascolto è sempre minore, la predisposizione all'ascolto è sempre minore. Vabbè, Francesco, vedevo che tu hai suggerito a Antonio. Sì, perché proprio qui in diretta ho anche invitato alla trasmissione. Vieni ad ascoltarla, sta trasmissione. Vabbè, dopo è nata non una polemica, però comunque mi è stata inviata sta roba. A proposito di fake news, di cose, di propaganda di un certo tipo, Antonio, te l'ho inviata anche su WhatsApp. Leggi tutta sta roba e smontala pezzo pezzo, perché tanto è È di un'ignoranza pazzesca sta cosa. Allora, però... ve la leggo io la notizia, poi magari l'argomentiamo anche insieme, dal gruppo, no? Legge anche dal, dal nome del gruppo. Allora, il nome del gruppo è richiesta di risarcimento danni alle ONG. È già qua. Chi è che fa la richiesta di risarcimento danni? Mi viene da strapparmi i capelli solo leggendo sta cosa. Ci rendiamo conto che una sinistra che insieme a Malavena, virgola, il 25% dei voti, virgola, cioè virgola è a casaccio, non si è capito così, impone al 75% degli italiani la volontà di una gol partitino dello zero, virgola, qualcosa, punto interrogativo, punto esclamativo. Quindi come la devo leggere? Come una domanda o come un'esclamazione? No, qualcosa. Ci rendiamo conto che una sinistra che insieme a Malapena il 25% dei voti impone al 75% degli italiani la volontà di una col partitino dello zero, qualcosa. Governo della vergogna! Governo della vergogna! Ma che vuol dire? Cioè, io non ho capito che vuol dire. Io! La notizia della sanatoria dei clandestini, questo è il punto focale, così chiudiamo in bellezza oggi. La notizia della sanatoria dei clandestini è già arrivata ai trafficanti in Tunisia. Pagina Facebook con 283.414 follower. Complimenti, Teresa Bellanova! E quindi poi c'è sotto la breaking news: sanatoria Bellanova, trafficanti arabi di clandestini esultano, grazie Teresa. Ma che guarda, dire? Che gli vuoi dire? Abbiamo già risposto prima, insomma, una roba che ci sarà un tempo in cui bisognerà smettere di dire e bisognerà fare, perché poi alla fine, ma poi comunque oggi qualcuno proprio su Radio Capital sentivo faceva, ci bisognava intervenire prima, ma sono, so 15 anni che lo diciamo che bisogna intervenire prima. No, vabbè, dove? Comunque, in generale. In quale vergogna? No, vabbè, perché comunque il pericolo era dilagante, si vedeva, insomma, che c'era un'emergenza da sto punto di vista. Allora, io direi che intanto, vabbè, Antonio, noi ti ringraziamo. Non vuol dire niente davvero di sta cosa, Antonio. Cioè, ma vabbè, ma che vuoi dire? Cioè, onestamente, come dicevo prima, l'avrei digerita con un sorriso questa cosa, se veramente sta sanatoria fosse servita a qualcosa. Poi guarda, una cosa che magari passa anche sotto traccia è l'accrescimento incredibile della clandestinità che ha creato il governo Salvini, perché ovviamente la cosa che è risaltata più ai media, anche alle persone più sensibili, è la criminalizzazione delle ONG, no? Queste multe spropositate, anche grazie a Di Maio, anche qui, certo. Sì, queste multe spropositate per chi soccorre gente in mare, che è già una cosa obiettivamente che è insomma, è una cosa allucinante da sentire. Però sottovoce insieme a questa cosa ci hanno messo la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è il tipo di permesso di soggiorno più diffuso tra gli italiani, anche perché è un tipo di protezione che esiste solo in Italia, esisteva solo in Italia, e credo che grazie a questo decreto c'è stata una moltiplicazione esponenziale dei clandestini. Quindi i clandestini, non so come si chiama la tizia che ha pubblicato questa roba, li ha creati proprio la destra, li incentiva la destra e li vuole la destra. Vabbè, è abbastanza chiaro. Condivisibile. Ragazzi, io direi che poi abbiamo detto che magari torniamo anche su altri temi correlati, magari allarghiamo un po' la discussione. Però insomma, diciamo che per stasera abbiamo abbondantemente sviscerato questo argomento e speriamo di essere stati utili anche per la tua associazione, insomma. Comunque già il fatto che ti hanno ascoltato in 20 uguale che non cioè è meglio che ti hanno ascoltato in 0, insomma, diciamo così. Quindi alla fine comunque qualcosa per quello che possiamo fare noi, no? Ma nel nostro piccolo magari poi un giorno ti verremo a trovare a Caserta comunque passare la serata con voi è stato molto bello quando sarà possibile, però, naturalmente. Assolutamente. Allora, due cose veloci prima di salutarvi. Vi ricordo che il consueto appuntamento del vino lo porto io live del sabato mattina, in realtà questa settimana andrà in onda domani sera, sempre live ore 21 su Runtime. E ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato al sondaggio nel nostro canale Telegram di Runtime Radio, la Radio Geek. perché abbiamo chiesto insomma se preferivate che Mono di Michela De Paola, quindi la nostra trasmissione musicale, rimanesse durante il pomeriggio del sabato o la sera del sabato. Insomma, avete votato in tanti. Della domenica, scusa. Avete votato in tanti e avete votato in tanti per far sì che rimanesse il pomeriggio. Perché mi sfruttate per fare le pulizie di casa. Esatto, brava. E la sera invece la gente si vuole guardare un film e non vuole stare ascoltare a te. Cioè, mi sfruttate che metti un po' di musica, che così. Dovresti essere io contenta che hanno partecipato in tanti al sondaggio. Sì, insomma, invece di lamentarti contenta. Sempre di qualsiasi. Tra l'altro, cosa. Vi invito, Antonio, anche te. Vieni a sentire Mono, perché comunque c'è sempre la chicca musicale perfetta. Ci sono sempre delle canzoni scelte con grande cura, quindi sono molto contenta di poter fare. Comincio a perdere un po', cioè, oddio, questa già l'ho messa, però insomma. C'è Ipergem, metti sempre Ipergem, quindi. No, assolutamente, li ho messi una volta sola. Sì, li ho messi una volta sola. Davvero, ha messo una volta sola. E quando faceva le vecchie puntate, quelle di anni fa, prima di riprendere adesso, quando faceva la monografia, non l'ha fatto quella su Ipergem. Quindi basta dire che mette sempre Ipergem, non grazie. È vero. Non è vero. Sei un venduto, Francesco, sei un venduto. No, aspetta, ciò non ci impedisce di continuare a sfotterla per il fatto dei Ipergem. I Ipergem sono sacri per me, no? E soprattutto Eddie. Allora, il problema è che fare una monografia su Ipergem è complicatissimo. Nel senso che c'è tutta dopo una storia. Dopo devi mettere la bagnarola sotto la sedia. Ecco, capito. Quindi, vabbè, però arriverà, non si sa mai, magari un giorno arriverà. Va bene, intanto vi saluto però dicendo, poi Michela dici quello che è, vi finisco di dire quello che volevo dire, che era ovviamente il fatto che ci sono stati tantissimi feedback durante questi periodi, insomma, delle grandi dirette, ma soprattutto il mese scorso e questo mese sono i mesi dove c'è stato il boom d'ascolti e di iscrizioni e di abbonamenti a Runtime Radio. È tutto merito mio. Allora ragazzi, io devo dire, noi abbiamo fatto un culo grosso con Secchio e quindi ce lo meritiamo. Diciamo questo. Però ci fa piacere che c'è stato sto riscontro, perché non era così poi scontato, insomma. Quindi vuol dire che questo sogno della nostra piccola barchetta pirata, che se ne va in giro a fare cose che non dovrebbe fare, a dire cose che non dovrebbe pensare, insomma, vuol dire che facciamo bene, che a qualcuno fa piacere e che gli piace stare con noi in compagnia. Questo è sempre importante. Ci dispiace che abbiamo dovuto interrompere quel periodo massiccio di live, ma ragazzi, cioè, poi purtroppo bisogna tornare anche alla realtà. Ma sì, diciamo che la live il pomeriggio ci manca un po' a tutti, però ma non c'è più nessuno il pomeriggio ad ascoltarci. Cioè, siamo contenti che sta fase 2 inizi. Speriamo che inizi davvero e si riparta. In bocca al lupo a tutti quanti, perché ne abbiamo bisogno tutti. Bene, io ti ringrazio e ti saluto, così tu saluti anche loro e dici a Francesco di poi di lanciare il brano. Allora, io settimana. Intanto saluto. No, lancialo tu, che non c'ho le robe qui. Vabbè, davanti. Ma basta che dici il titolo, dai, l'abbiamo ripetuto mille volte. Allora, io intanto saluto tutti quelli che sono intervenuti in chat, tutte le persone che ci hanno ascoltato, il cuciniere che è passato da membro a cuciniere, Leo, Olivia che è arrivata tardi, Ciro e Runtime Radio. Vedi, pizzi come De Luca, presidente subito. Hai ragione. Mi candiderò, tranquillo. Sì, ci manca solo quello. Allora, io ringrazio soprattutto Antonio, perché è stato veramente allora, innanzitutto è stata interessantissima questa intervista. E poi diceva che lui non sapeva se avrebbe detto tante cose, invece cioè, no, ma poi l'abbiamo assodato e c'è il Runtime di notte, ci sarei anche tu. Eh sì, bene ragazzi. Antonio, ormai sei stato assimilato. Mi spiace, vogliamo sapere. Oh, Francesco mi ha stuzzicato su una determinata questione. Perché prepara il primitivo, prepara il tuo miglior vino e ci vediamo sabato sera. No, si addormenta, sei da preparare la caffettiera. Tu non bevi caffè, è vero? No, lo bevo, per lavorare ho dovuto berlo, per forza. Per lavorare? Ah, ok. Sì. Soffro di reflusso, ma il caffè è necessario, purtroppo. Per forza, sì. Vabbè, comunque questo è il saluto più lungo che una radio abbia mai fatto. Quindi ciao Michela. Francesco, ci devi annunciare la canzone. Sì, la canzone di questa settimana è degli Zoot, che è un gruppo marchigiano.